Effetto neve. Effetto neve con Massimo Di Scienza. 35 minuti dopo le 16, buon pomeriggio, buona domenica in regia Valeria Bernardi, in redazione a Giorgio De Luca. Non perdiamo tempo, subito dalla nostra Elisa Calcamuggi, inviata di Sky per il resoconto di quello che è accaduto oggi, perché siamo davvero arrivati alla fase conclusiva della stagione, Coppa del Mondo che sta per vivere le finali di Lanzeride. Buon pomeriggio Elisa. Buon pomeriggio a tutti. Da che cosa iniziamo? Dalle donne o dagli uomini? Partiamo dai maschietti, dai. Partiamo dai maschietti, visto che oggi loro erano in pista in Norvegia a Kitzbühel, mentre le donne hanno finito di gareggiare ieri. Non è stato un weekend facile per gli uomini della squadra nazionale italiana, perché abbiamo raccolto solamente un settimo posto con Teo Marsaglia in discesa ieri e un altro settimo posto con Christoph Innerhofer oggi. Però la prima discesa, addirittura quella di venerdì, ci ha visti 26esimi con Innerhofer, 31esimi con Peter Fil. Purtroppo ho parlato col tecnico Rulfi, che è responsabile del settore velocità, e anche lui mi ha confermato quello che poi hanno un po' raccontato gli atleti al traguardo, il fatto che queste nevi particolarmente fredde e aggressive non sono quelle adatte alla sciata dei nostri atleti, che soprattutto nei tratti piani di scorrevolezza con questo tipo di nevi accusano secondi e centesimi di distacco dai migliori. Per cui purtroppo dal punto di vista maschile è stato un weekend negativo. Forse Matteo Marsaglia può essere l'unico azzurro davvero soddisfatto, perché questo settimo posto in discesa libera è per lui il miglior risultato della stagione, per cui diciamo che il suo weekend è stato positivo. Nel frattempo è stata assegnata la Coppa Generale, perché Ivica Kostelić, proprio grazie al risultato della discesa, è riuscito a confermarsi leader della classifica generale e con 518 punti di distacco ormai ha fatto sua la Coppa del Mondo, la prima Coppa del Mondo per lui, perché la sorella Janica ne ha già vinte tre nel 2001, nel 2003 e nel 2006, invece lui ha la prima, quindi diciamo che nella famiglia Kostelić arriva la quarta Coppa del Mondo. Per quello che riguarda invece il settore femminile, tutto ancora da decidere, ma quello che spaventa in questo momento la Risch è che la Von è sempre più vicina, perché in questo weekend di gare tecniche che avrebbero dovuto facilitare la tedesca Maria Risch, invece è stata la Von che ha conquistato, pensate, il suo primo podio in slalom gigante, perché non era mai arrivata sul podio ed è riuscita ad arrivare in gigante terza dietro la nostra Denise Carbon. E in slalom la Von è riuscita comunque a terminare sedicesima, e la Risch, che partiva da favorita, è arrivata addirittura fuori, quindicesima dopo la prima manche, poi non ha concluso la seconda. Quindi diciamo che ci avviciniamo a quello che riguarda l'appuntamento con Lanzeride, con gli uomini che hanno già assegnato la Coppa del Mondo Generale, le donne che invece sono lì molto vicine, ci sono 23 punti che distanziano la Von dalla Risch, e con un weekend al femminile che ci ha regalato il bellissimo podio di Denise Carbon, che era da quasi più di un anno che non riusciva a salire sul podio. Le è successo di tutto, perché pensate che lei ha avuto addirittura 9 operazioni in carriera. Quest'anno era partita molto bene e poi purtroppo si è rotta il menisco, è stata operata, e anche il suo crociato purtroppo non è in buone condizioni, deciderà a fine stagione se essere operata nuovamente oppure no, però con questo secondo posto lei si è guadagnata le finali di Lanzeride. Torneremo a parlare di Denise Carbon nella seconda parte di Effetto Neve. Abbiamo fatto il pieno di notizie, insomma Elisa Calcamuggi ci ha fatto il quadro della situazione di tutto quello che è accaduto in questo fine settimana. Avete sentito situazioni contrapposte, gli uomini che hanno già assegnato la Coppa del Mondo Generale e invece a Lanzeride si lotterà soprattutto per le coppette, e situazione praticamente opposta per le donne. Il duello tra Risch e Von è davvero affascinante, questi 23 punti di distacco faranno sì che il mistero verrà sciolto soltanto dopo le ultime gare di venerdì e sabato sulle nevi svizzere. I commenti questa settimana, per i commenti ci affidiamo ad una grande penna del giornalismo italiano, appassionato, esperto non soltanto di sport invernali ma anche di Formula 1, e con noi l'inviato del Corriere dello Sport Fulvio Solms. Benvenuto a Radio 24, Solms, grazie per averci raggiunto. Grazie, buon pomeriggio. Allora, ha sentito da Elisa, abbiamo fatto il punto della situazione. Con lei non posso che partire dalla notizia di questo fine settimana, ovvero la prima Coppa del Mondo Generale in carriera che troneggerà nella sezione maschile, diciamo così, di casa Kostelić, dopo che invece le tre Coppe del Mondo della sorella, insomma, sono un dato acquisito ormai da anni. Giusto così? È il migliore di tutti? Lo ha dimostrato in questa stagione? Ma certamente, Kostelic è stato il migliore di tutti, anche perché ha fatto vedere, non solo non ha solo ottenuto dei risultati, ma ha fatto vedere una grande continuità in tutte le discipline. E fino a prova contraria bisogna dargli atto di questo, perché poi si sentono spesso dei dubbi, si sentono spesso delle voci relative a questi suoi ritorni, queste sue assenze, queste prestazioni in parte non giustificabili, perché tutti quanti dicono solo un mostro riesce a tenere un ritmo del genere vincendo così tanto, alludendo a una possibilità di qualche pratica scorretta. Fino a prova contraria è un grande campione, poi la persona è tutt'altra cosa. Io francamente lo amo come atleta in pista, meno fuori dalla pista per vecchie ragioni, per sue vecchie prese di posizione che conosciamo, insomma. Non è però un gran personaggio Ivica Kostelic, non è uno di quelli che riempie gli schermi. Sì, è un grande personaggio. Quando si è grandi personaggi bisogna sapere anche come comportarsi. Insomma, sappiamo, lui anni fa si lasciò andare a certe affermazioni, a certe teorie negazioniste che, insomma, un campione di sport, dalle quali un campione di sport dovrebbe tenersi molto lontano. Comunque, ripeto, l'atleta quest'anno non c'è nulla da dire, l'atleta ha ottenuto un grandissimo risultato, onore a lui. Adesso vediamo, 36 anni e mezzo, peraltro è un'età ragguardevole per risultati del genere, vedremo adesso se l'anno prossimo riuscirà ad essere all'altezza di quello che ha fatto, anche in parte all'altezza di quello che ha fatto quest'anno. Elisa, quest'anno rispetto alla Coppa del Mondo femminile, nel maschile è mancato un po' il duello, no? Nel senso che Kostelic ci ha preso il largo e poi è stato impossibile recuperarlo. È mancato qualcosina anche dal punto di vista dello spettacolo, così della suspense per il risultato agonistico, secondo te? Ma secondo me effettivamente lui sì, fin dall'inizio ha cominciato a raccogliere punti in tutte le gare, dalla discesa al Super G, passando per la combinata e lo slalom, quindi niente da dire. Io credo che però ogni gara in realtà rappresenti un po' uno spettacolo a sé, quindi sì, è vero che la Coppa generale è importante, però non credo che poi ne abbia perso in realtà lo spettacolo delle singole gare. Forse gli atleti di per sé anche poi molto concentrati sul Mondiale, perché poi quando c'è la stagione del Mondiale o delle Olimpiadi, non dico che la Coppa del Mondo passi in secondo piano, però di solito si punta un po' di più alle medaglie. Invece Kostelic è partito fin dall'inizio pensando solamente alla Coppa generale, tanto che anche ai Mondiali di Garmisch ha deciso di non partecipare alla combinata, dove avrebbe vinto sicuramente una medaglia, perché voleva riposarsi per tornare in forma in Coppa del Mondo. Quindi è stata proprio forse una scelta sua, però lo spettacolo c'è comunque stato. E poi, come dicevamo, per tutto quello che riguarda le coppette ci sarà ancora battaglia alle finali di Lenz Ride, perché in discesa devono ancora capire chi ce la farà tra Valhofer, Kusch e Kröll, per quello che riguarda il Super G anche tra Kusch e Streitberger, per quello che riguarda il gigante abbiamo Ligeti e Svindal che sono vicini, anche per la coppetta di slalom c'è Kostelic che lotterà con Grange, quindi secondo me lo spettacolo sarà garantito comunque. Solms, venendo invece alla situazione femminile, qui il duello emozionante e appassionante c'è, come ci raccontava Elisa, fino all'ultimo conteremo i punti di differenza tra la Risch e la Fon. Anche qui due personaggi molto diversi, c'è chi preferisce, apprezza l'una piuttosto che l'altra. Secondo lei chi è la più forte tra le due, chi ha dimostrato di avere caratteristiche migliori? Oh beh, la più forte forse non lo dirà nemmeno questa Coppa del Mondo, visto che hanno preso oltre 1600 punti ognuna delle due, e sono a differenza minima. Tra le due c'è una differenza minima veramente, quindi non lo so, sono due atlete straordinarie, alla fine non so chi vincerà. Anche se il momento sembra più propizio alla Fon, perché psicologicamente la Fon si era appena messa alle spalle una rimonta straordinaria e la riesce, dal punto di vista psicologico sta passando un momento piuttosto pesante e difficile, ecco. E tra l'altro loro, la terza, immaginate soltanto che la terza, la madre, ha preso poco più di 1000, ha appena superato il numero dei 1000 punti, quindi loro sono quasi a quota 1007, quindi veramente due atlete che hanno sovrastato la Coppa del Mondo. Si potesse bisognerebbe dividere la Coppa in due, non si può, e quindi una mezza ingiustizia andrà fatta, ma meriterebbero tutte e due di vincerla. Allora facciamo una cosa, siccome abbiamo una graditissima ospite nella seconda parte di Effetto Neve, noi anticipiamo per qualche secondo il traffico e ci fermiamo soltanto per qualche istante, gli ultimi aggiornamenti per chi è in viaggio, poi torniamo ancora con Fulvio Solms per chiedere a lui anche un parere sulla Coppa del Mondo degli italiani, e poi andremo al momento clou di questa nostra trasmissione, perché avremo con noi Denis Carbon. Effetto Neve. Effetto Neve. Fulvio Sorms, inviato del Corriere dello Sport, per gli italiani è stato l'anno di Innenhofer. Una sorpresa per il grandissimo pubblico, una conferma per chi già ne conosceva e ne apprezzava le sue qualità. Che margini di miglioramento ha ancora, secondo lei, Innenhofer? Dopo un argento, un oro, un argento e un bronzo ai mondiali, chiedergli ancora un margine di miglioramento è veramente dura. Un margine di miglioramento c'è forse c'è sicuramente sulla resa in Coppa del Mondo. Innanzitutto lui quest'anno è stato il migliore degli italiani in assoluto. Anche ottavo in classifica. Ottavo in classifica. E quello che gli si può chiedere è fare qualche gigante, non tutti i giganti, fare qualche gigante in più, vedere se riesce a cavarsela bene anche nelle combinate, nell'obiettivo, nel possibile obiettivo futuro di una corsa alla Coppa del Mondo, perché quello che ci manca in verità è una punta che vada a inseguire la Coppa del Mondo, che ricordiamo l'ultimo italiano a vincere è stato Alberto Tomba nel 1995, insomma, è vera Tomba peraltro. Ed eravamo bambini noi, quindi insomma sono passati parecchi anni. Cosa ne pensa della querela che riguarda i tecnici della nazionale italiana? Il 30 aprile scadono i contratti, non verranno rinviati, bisognerà capire nei prossimi mesi con quale squadra tecnica si ripartirà. Non lo so, l'importante è che non si guasti quello che c'è, perché una squadra vincente non si può decapitare nel modo in cui forse in federazione qualcuno ha intenzione di decapitarla. Il presidente Morgenti sicuramente vuol lavorare per migliorare questa nazionale, questo non c'è dubbio, però ha delle idee a mio avviso un po' bizzarre per arrivare a questo obiettivo, perché cominciare a mandare via il direttore agonistico che ha dato tanta sicurezza agli atleti, ai tecnici e a tutto lo staff, tra gli uomini e tra le donne, è un'idea così molto molto molto pericolosa e peraltro anche criticata, insomma, no? Grazie a Fulvio Solms, inviato del Corriere dello Sport. Continueremo a leggerla sulle pagine del quotidiano sportivo. Poi adesso inizia anche la stagione della Formula 1, quindi non finisce mai l'anno per lei. Grazie ancora, buon lavoro e a presto. Grazie a voi. Grazie a Fulvio Solms. Elisa Calcamugge, allora, hai introdotto l'argomento nella prima parte di Effetto Neve. C'è stato uno straordinario ritorno in questo fine settimana che il pubblico degli appassionati di sport invernali attendeva da tanti e tanti mesi. Quello di Denis Carbon ha fatto veramente una cosa straordinaria, vero Elisa, Denise? Sì, straordinaria, perché se pensiamo che gareggia su una gamba sola, direi che e ha sul tutto il resto del corpo 9 operazioni alle spalle, direi che ha fatto una cosa straordinaria. Poi era sesta dopo la prima manche, quindi è stata eccezionale nella seconda, nella parte quella tecnica dove lei riesce a fare la differenza, è stata ancora una volta superlativa. E vederla poi sorridente così al traguardo, sapendo tutto quello che ha passato, credo che per qualsiasi appassionato sia stata la soddisfazione più bella. E chiediamolo a lei cosa ha provato sul podio. Denis Carbon, buon pomeriggio, grazie per essere su Radio 24. Ciao a tutti, buon pomeriggio. È vero che è scappata qualche lacrimuccia? Sì, alla fine sì, quando ero sul podio, il primo momento un po' più tranquillo, mi è passato per la testa, sì, sono passati un po' di pensieri, un po' di ricordi di questi ultimi mesi e quella soddisfazione di avercela fatta di nuovo, di essere lì sul podio tra le migliori sciatrici del mondo, era veramente una cosa che mi ha preso abbastanza e una bellissima emozione comunque. Anche perché, insomma, dopo il quarto posto al mondiale di Garmisch, insomma, sembrava, come dire, questione di giorni, no? Il tuo ritorno tra le tre più forti sul podio, magari anche, chissà, qualcosa in più. Quando è che hai capito che è ritornata la Denis Carbon di qualche mese fa, di qualche anno fa? Sì, proprio lì alla gara di Garmisch l'avevo capito, perché negli allenamenti già andavo di nuovo forte e capivo che come tecnica, come fisico c'ero di nuovo, però ovviamente in gara bisogna farlo vedere e non è sempre facile perché hai solo una mancia e non puoi tornare su e provare due o tre volte finché poi funzioni, e proprio questo aspetto di doverlo far vedere in questo minuto, prendere rischi senza sbagliare un po' tutto l'insieme, è questa la cosa difficile. E poi a Garmisch però ho capito che ce la potevo fare, che comunque anche di testa adesso ero pronta di nuovo per essere tra le più forti, e questo mi ha dato tanta fiducia, così anche a Spindlermühle quando le condizioni non erano al massimo perché il tempo era brutto e anche la neve un po' moluccia, mi sono detta ci sei, hai lavorato tanto e fidati perché ce la puoi fare. sono stata anche fortunata sicuramente, però per me è molto importante, sì, questo mi dà tanta fiducia in me stessa soprattutto. Elisa Calcamugi, una domanda per Denise Carbon. Io so che magari lei in questo momento è l'ultima cosa che vuole, della quale vuol parlare, però ha guadagnato le finali di Lenzerheide, che era il suo obiettivo questa stagione. Però poi noi sappiamo che lei in questo momento ha un crociato che non è a posto e sta decidendo in cuor suo se operarsi, quindi ricominciare tutto quello che riguarda la rieducazione, oppure, visto che comunque tiene, perché se è arrivata seconda in Coppa del Mondo vuol dire che tiene, c'è la possibilità magari di rimanere fermi così. Sì, allora io dopo, fino ai mondiali, ho detto che non ne voglio sapere, voglio provare i mondiali, erano il mio obiettivo e non voglio pensare a questo ginocchio, trattarlo come se fosse nuovo, tutto a posto, e poi dopo i mondiali sono andata a fare la visita dal mio chirurgo a Bressanone e come sorpresa anche lui l'ha trovato molto bene, molto stabile questo ginocchio e non se lo può tanto spiegare così come medico, come chirurgo, però la sua spiegazione potrebbe essere quella che tutte queste fasce che si erano rotte, che di questo legamento già rifatto, si sono cicatrizzati bene e in questa fase anche il ginocchio ha ripreso un po' la sua stabilità. E con tutta la terapia e il rinforzo muscolare tutto attorno al ginocchio è tornato abbastanza buona, abbastanza stabile e in questo, come l'ha visto così in questo momento, ha detto che forse l'operazione non è più necessaria. Questa per me dopo i mondiali è stata la notizia più bella e a Spindlermüller ho detto adesso non hai neanche più questo pensiero in testa perché il ginocchio dovrebbe tenere e poi andare senza pensarci. Non c'è dubbio, si scende, come dire, mentalmente più libere senza questo tipo di peso. A 30 anni, Denise, sono più rimpianti per quello che potevi fare e che ti è sfuggito, almeno per il momento, o più la voglia invece di riuscirci? Perché come ha dimostrato il vincitore della Coppa del Mondo maschile, Ivica Kostelić, si può tranquillamente andare forte a 36 anni e mezzo. Sì, certo, anch'io sono molto soddisfatta di essere ritornata, non di aver fatto un po' di ancora 30 anni, che sicuramente non si può più fare, però la consapevolezza di essere tornata, di avere vinto anche questa sfida di nuovo contro l'infortunio, e questo per me è stata la cosa più importante anche per la motivazione per riuscirci un altro anno, e questo sarebbe il mio obiettivo, fare una stagione intera e veramente far vedere cosa riesco a fare senza infortunio, passare una stagione dall'inizio alla fine senza inciacchi. Questo sarebbe una cosa molto bella e in questo momento sono anche molto fiduciosa e ci credo e ci spero nella prossima stagione. E ovviamente noi facciamo il tifo per te, facciamo il tifo per Denise Carbon, che ci ha fatto sognare 3 anni fa, i 5 successi in gigante, la Coppa del Mondo. A proposito, la Coppa del Mondo dove ce l'hai? Dove l'hai conservata? Così raccontaci questa curiosità. È sempre al suo solito posto, ha preso il posto più bello nel nostro soggiorno, un po' tirolese, e la mamma la cura molto bene anche quando sono in giro d'inverno e quando arriva qualcuno a visitarci a casa è sempre il soggetto che più colpisce e di cui siamo tutti quanti fieri. Ci auguriamo che possa essere, chissà, magari in un futuro possa trovare qualche sorellina, presto, chissà. Sicuramente non sarebbe male, incrociamo. Ma già questo è già comunque un successo, esatto. Un risultato straordinario. Grazie a Denise Carbon, in bocca grazie al lupo per il futuro, ovviamente a partire dalle finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide che stanno per scattare. Ricordiamo, per quanto riguarda le donne, in particolare per Denise, l'appuntamento sabato con il gigante. Grazie ad Elisa Calcamugi, ci risentiamo domenica prossima, Elisa, per fare il punto finale definitivo della stagione, proprio alla luce delle finali di Lenzerheide, che qualcosa, non tantissimo, ma qualcosa di importante devono ancora dire per quest'anno. Buona domenica, Elisa. Grazie a voi, buona domenica. Grazie a Valeria Bernardi in regia, Giorgio De Luca in redazione. Adesso è già pronto Carlo Genta con gli aggiornamenti di calcio. Noi di Effetto Neve torniamo tra 7 giorni. Effetto Neve. Effetto Neve. Effetto Neve.